obsoleto, non ci soddisfa più. Siamo stanchi della crisi, della recessione, dell'epidemia. Siamo stanchi di invecchiare e anche di crescere. Vogliamo solo ballare fino all'alba e poi fare l'aperitivo. Ma ieri ho visto la pubblicità. Dice che qualcosa forse cambierà. Ciclo naturale, c'è bisogno di una novità da immettere sul mercato globale. In fondo anche un po' l'amore non ci diverte più. Abbiamo bisogno di nuove emozioni, giochi e nuove posizioni. Ma ieri ho visto la pubblicità. Dice che qualcosa adesso cambierà. È già in arrivo la nuova edizione. Sarà una svolta, una rivoluzione. Un format di nuova generazione. Immagini in alta definizione. Guarderà i vecchi, dall'Africa chi poi lavorerà nei campi, mentre prenderemo il tè